Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17:07, buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Puntata che nel prepararla a partire da questa mattina speravamo per una volta non si dovesse occupare o almeno potesse prendere un po' di respiro dalle questioni che riguardano i mercati, perché in effetti la mattinata era iniziata, se non bene, almeno decentemente, con rialzi seppur frazionali, uno 0,7% sul FTSE MIB, e con un calo almeno inizialmente dello spread, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. E poi le cose sono andate peggiorando. Sono andate peggiorando già nell'arco della giornata e ulteriormente nel momento nel quale è aperto Wall Street. Il Dow Jones cede adesso lo 0,67%, il Nasdaq lo 0,45%, ma chi va veramente male sono Milano e Madrid. Il FTSE MIB lascia sul terreno il 2,4%, il FTSE All Share il 2,24%, intorno ai 2,5 punti percentuali di calo, appunto, anche la borsa spagnola. Non ha risentito di una virgola Francoforte della decisione di Moody's arrivata in tarda serata di cambiare l'outlook su una serie di paesi, tra cui la Germania, i famosi paesi, alcuna serie di paesi a tripla A, cioè Germania, Olanda e Lussemburgo, risparmiando in realtà la Finlandia, passando l'outlook a negativo, dicendo chiaramente, la previsione, insomma la sua visione sul futuro del rating di questo paese, per dirla molto semplicemente, e quindi non è cambiato il rating, è cambiata solo la prospettiva, dicendo chiaramente che sì, i paesi sono solidi, ma tra i punti che evidenzia Moody's c'è esattamente il rischio di un'uscita di un qualche altro paese dall'euro, insomma esattamente i rischi che riguardano il debito dei paesi europei più deboli, in questo caso evidentemente anche il nostro, che potrebbero avere un impatto notevole e molto pericoloso per la stessa Germania. Una giornata nella quale continuano a rincorrersi voci, indiscrezioni e parole. Tra queste indiscrezioni c'è quella di una lettera congiunta, un comunicato congiunto di Francia, Spagna e Italia per chiedere l'attivazione immediata o quantomeno il prima possibile delle decisioni prese il 28 e 29 giugno nel famoso vertice europeo che avrebbe dovuto risolvere tutto e che un'altra volta non ha risolto niente, evidentemente, e voci che però al momento non trovano conferma. Ci occuperemo naturalmente di questo, soprattutto al lato dei mercati, perché poi insomma abbiamo lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi che è a 533 punti, il rendimento dei nostri titoli decennali che è al 6,56%, la Spagna spread a 638, rendimenti al 7,61%, completamente insostenibili naturalmente per la Spagna. Ci occuperemo di questo al lato dei mercati, ma toccheremo anche altri temi nella giornata di oggi, a partire da una vicenda giudiziaria e quella che riguarda Fondiaria SAI e questa lettera, questo accordo che ci sarebbe stato tra Mediobanca e i Ligresti per una buona uscita della famiglia, 45 milioni di euro per andarsene da Premafin. E poi ci occuperemo di una vicenda di lavoro che forse avrete trovato, insomma chi è stato più attento anche sui quotidiani oggi, che è la vicenda che riguarda lo stabilimento Perugina della Nestlé a Perugia, appunto a San Sisto, nel quale è già stata fatta una proposta curiosa dall'azienda. Tagliate le ore di lavoro, hanno proposto ai sindacati, 6 ore di lavoro, in cambio assumiamo i vostri figli, questo per dirla grossolanamente. Poi entreremo nel dettaglio, prima di tutto le notizie in breve, naturalmente 349-238-6666 per i vostri sms. Come sempre Iniziamo dalle materie prime. Oro in aumento a 1579,73 dollari l'once. Il petrolio invece, che ha aperto in calo, adesso è lievemente positivo. Per quanto riguarda il Brent, quello quotato a Londra con consegna a settembre in guadagno dello 0,31% a 103,5 dollari al barile. In rialzo anche il WTI, quello quotato a New York, di mezzo punto percentuale a 88,58. Come si diceva, Moody's, la decisione di Moody's non ha avuto impatto sulla borsa tedesca, ma non ha avuto impatto nemmeno sulle vacanze di Angela Merkel, ci informano dal governo tedesco. Non le ha interrotte, anche se ha aggiunto: tutti devono ricordare, frase già detta da Merkel, che le forze della Germania non sono illimitate. Nel frattempo, oggi la famosa Troica, Unione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario, visita Atene, dove per il 27 è atteso tra l'altro l'arrivo del Presidente della Commissione Europea, Barroso. Lo spread tra BTP e Bund, che vi abbiamo detto poco fa, è arrivato a 533,2 punti base. Come nota, è lo stesso livello del 17 novembre, quando ci fu il passaggio di consegne tra Berlusconi e Monti. Come si diceva, c'è anche questo appello ancora fantasma, a dir la verità, non c'è ancora il comunicato ufficiale, da quel che ci risulta ci sono le agenzie che ne parlano. Juncker, il presidente dell'Eurogruppo, dice: riaffermiamo il nostro impegno a garantire la stabilità dell'Eurozona nel suo insieme. Nessun Eurogruppo, aggiunge, non c'è urgenza. Vabbè, insomma, qualche urgenza c'è, ma insomma, evidentemente non tanta da convocare l'Eurogruppo, almeno nella visione di Juncker. Dati sull'Italia: le esportazioni verso i paesi fuori dai confini dell'Unione Europea a giugno calano del 2,8% su base mensile, un ribasso che segue il balzo di maggio, mentre restano ampiamente positive con un rialzo del 12,4% su base annua. L'import scende del 5,9% su maggio e del 7,1% in termini tendenziali. Stanno continuando a circolare in queste ore voci di un blocco delle tredicesime per i dipendenti pubblici in Italia, così come è avvenuto in Spagna. Ne ha parlato Confesercenti, con accenti di preoccupazione naturalmente, dal punto di vista dei commercianti, come ovvio, perché insomma vuol dire uno stipendio secco in meno per dipendenti pubblici e pensionati. Ha smentito, o almeno insomma ha detto, lo ha appreso oggi dalle agenzie, il ministro della pubblica amministrazione Patroni Griffi. La Spending Review parla il relatore al decreto: salterà il taglio dei fondi alla ricerca previsto per quest'anno, è pari a 30 milioni di euro. Dice anche, si tratta di Gilberto Pichetto Fratin del PDL, che è difficile un ulteriore allargamento della platea dei salvaguardati tra i cosiddetti esodati, ulteriore rispetto ai 55.000 per i quali sono state già individuate le risorse. Dice intanto il ministro del lavoro Elsa Fornero, rispondendo ad una domanda sulla proposta di un nuovo patto sociale avanzata ieri dalla CISL: se lavoriamo tutti insieme contro la crisi, questo è il miglior patto sociale. Dice il segretario della UIL Luigi Angeletti: ogni giorno 1.000 persone perdono il posto di lavoro, chiediamo al governo di fare politiche che affrontino questo problema. E veniamo al nostro primo tema di giornata, che sono naturalmente la situazione europea e i mercati. Bene, già ci avete scritto ieri, proveremo anche a sentire se lo troviamo il parere di un economista maglia sulla crisi dell'Eurozona, però insomma, forse un po' troppo. cosa succede, in parte lo abbiamo detto, cosa succede anche in Spagna. Ci scrivete tra l'altro al 349-238-6666 parlando di taroccamento dei conti da parte di una serie di regioni europee. Ora, insomma, non sappiamo se effettivamente sia così. Certo che ci sono una serie di regioni che sono in difficoltà in Spagna, tra cui la Catalogna. A quanto pare è destinata a chiedere l'aiuto del governo centrale spagnolo. Così il responsabile dell'economia del governo catalano, Andreu Mas Colell, alla BBC. The current situation is Catalonia has no other bank than the government of Spain. La situazione attuale è che la Catalogna non ha a disposizione altra banca che il governo spagnolo. Questo è ciò che succede. Tutti conoscono la situazione sui mercati ed è normale che ci rivolgiamo al tesoro spagnolo. La ragione è perché dobbiamo gestire il nostro debito e poi perché ci sono degli obiettivi da raggiungere in tema di finanze pubbliche. Obiettivi che devono essere finanziati. Sembrerei provenire da un altro pianeta se non dicessi che sono preoccupato di un'eventuale chiusura dei mercati nei confronti della Spagna. Mi auguro che le politiche europee agiscano rapidamente, in modo che questa eventualità negativa non si concretizzi. Mi auguro anche che si agisca in modo equilibrato, così da riportare la fiducia ed evitare la chiusura dei mercati. Se si riesce a fare ciò, allora sarà un bene per la Spagna, per la Catalogna e anche per l'euro. A sentire con noi tutta questa lunga introduzione ai temi c'è il collega del Sole 24 Ore, Moria Longo, che è in studio. Eccolo qua, Moria, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, io ti chiederei a questo punto di fare di aiutarci a dare uno snodo a tutto questo. Mi dicevi prima dell'inizio della trasmissione che, e partirei proprio dai mercati, così partiamo da quello, che inizia ad esserci qualche tensione in più anche sui titoli a breve italiani e non solamente su quelli a 10 anni. Ora ti chiedo che livelli di tensione e perché la cosa è preoccupante. Allora, i livelli di tensione sui titoli brevi italiani ci sono da qualche giorno, da qualche tempo ormai. Quello che mi colpisce è la giornata di oggi. Io ho stampato poco fa la schermata Bloomberg sui tassi di interesse. Si vede che lo spread tra Italia e Germania sui titoli a 2 anni, quindi abbastanza brevi, è salito oggi di 40 punti base, quasi mezzo punto percentuale. Lo stesso spread tra Spagna e Germania a 2 anni è salito di 12 punti base. Questi sono numeri di pochi minuti fa. Questo dimostra che da un lato l'Italia è assolutamente sotto pressione. In questo momento, oggi, se si guardano i giorni scorsi, è la Spagna principalmente sotto pressione e l'Italia viene successivamente. Ma in questo momento soprattutto l'Italia. Se si guarda il significato di questa cosa, quando la pressione va soprattutto sui titoli di Stato a breve scadenza, è un segnale bruttissimo. Perché solitamente la curva cosiddetta dei rendimenti, cioè i rendimenti di uno Stato o di un'impresa dei titoli con varie scadenze deve essere inclinata positivamente, cioè chi investe in un titolo a 2 anni corre meno rischi di chi investe in un titolo a 10 anni, quindi chi compra un titolo a 10 anni vuole rendimenti più alti. Questo perché in teoria il ragionamento che sarebbe alla base di tutto questo è: nei prossimi 10 anni non so che cosa possa succedere, mentre invece nei prossimi 2 anni ho la ragionevole certezza di una solidità del paese o di un'impresa. Esattamente, in situazioni normali. Quando invece le situazioni non sono più normali, come adesso, come è stato per esempio a novembre, allora la visibilità sul futuro è talmente opaca, diciamo, la nebbia è talmente forte che comprare un titolo a 2 anni o a 10 anni o a 30 anni alla fine cambia poco, perché uno non vede 2 anni, cioè li vede lontani, sì, e incerti come i 30 anni. Ci chiede un ascoltatore, Moria, dice è come in agosto dello scorso anno. Io non mi ricordo se fosse in agosto, però c'è stato un momento nel quale la curva dei rendimenti si è, come si dice, invertita, cioè i titoli a breve pagavano di più, avevano un rendimento più alto rispetto questo ai titoli accaduto, a lungo termine. È accaduto in maniera fortissima in Italia nel novembre scorso, quando c'è stato quel cambio di governo. C'è stato un giorno in cui i rendimenti dei bot a tre mesi e i rendimenti dei titoli decennali avevano lo stesso rendimento, tutte sopra il 7%, anche se poi non c'erano grandi volumi di scambio. Questo significava appunto che sull'Italia in quel momento c'era proprio totale incapacità di vedere il futuro, e quindi il rischio era considerato a tre mesi uguale a quello a 10 anni. Adesso non siamo in questa situazione, la curva è ancora inclinata positivamente, però quello che si sta vedendo è che si sta appiattendo notevolmente in Italia. In Spagna ancora peggio, perché in Spagna, per esempio, questa mattina per qualche minuto, poi è un po' cambiato, addirittura il titolo di Stato a 5 anni aveva un rendimento un po' più alto del titolo di Stato a 10 anni in Spagna. Questo vuol dire appunto che il fenomeno dell'appiattimento, che significa proprio incertezza totale proprio sul futuro più immediato, si sta verificando, è un fenomeno che sta appunto emergendo sui mercati. Questo cosa significa? Significa che i mercati hanno completa incertezza sul futuro nell'immediato. Perché? Perché le notizie che arrivano sono assolutamente negative. Abbiamo parlato adesso della Catalogna, ormai è chiaro che la maggior parte delle regioni spagnole non hanno più soldi, in tante l'hanno dichiarato, in tante sono solo in discrezione, ma accadrà. Lo Stato stesso non ha più soldi, l'ha detto il ministro spagnolo delle finanze settimana scorsa, non abbiamo più un euro in cassa. Il vero problema per la Spagna, al di là del problema delle banche, al di là del problema delle regioni, il vero problema della Spagna è che i mercati internazionali non ne vogliono più sapere sui titoli di Stato. La domanda di titoli di Stato spagnoli da parte di investitori esteri è calata drasticamente. Ci sono i numeri del governo, del governo spagnolo, che dimostrano che gli acquisti di titoli di Stato da parte degli investitori internazionali sono calati in maniera drammatica negli ultimi mesi. Le banche in un certo periodo, soprattutto all'inizio del 2012, hanno sostituito gli acquirenti internazionali comprando i titoli di Stato spagnoli, ma a un certo punto sono le stesse banche che sono finite in crisi, tant'è vero che adesso hanno bisogno di aiuto. In Spagna poi non c'è un mercato retail di risparmiatori, perché la ricchezza delle famiglie in Spagna è molto più bassa di quella italiana, e difatti i risparmiatori hanno il popolo dei bonus. I bot people non esistono in Spagna. Loro hanno, tra l'altro, cosa che abbiamo anche noi, un mercato finanziario molto asfittico, per cui non hanno fondi pensione, non hanno grandi investitori, per cui la domanda vera è: chi compra i titoli di Stato spagnoli? Ed è da qui che nasce l'indiscrezione che girava adesso su alcuni giornali spagnoli, mi auguro che non sia vera, ma è verosimile quantomeno, che la Spagna sta chiedendo aiuti non più per le banche ma per se stessa, per il governo. Tra l'altro c'è questo famoso incontro del quale già vi avevamo accennato ieri, tra il ministro spagnolo dell'economia De Guindos e Schäuble, il ministro tedesco, nel quale probabilmente, come si diceva, visto che a quelli che bisogna batter cassa, non a Bruxelles, perché è sostanzialmente inutile, probabilmente si diceva, stessero discutendo anche di questo, lo aveva anticipato ieri il Guardian, parlando di una richiesta da 300 miliardi di euro. Il punto è anche questo, Moria, che come già scrivevate sul quotidiano oggi, lo scriveva la collega Isabella Bufacchi, il problema è che i quattrini non ci sono in realtà. Sì, appunto, i fantomatici fondi salvastati non hanno soldi. La mia collega, appunto, Isabella Bufacchi oggi calcolava che di soldi effettivamente spendibili adesso, considerando i soldi già impegnati nelle varie tranche di aiuti già accordati, considerando che il fondo salvastati attuale deve reperire i soldi sui mercati, non ce li ha. Ecco, lei calcolava a spanne, come in discrezione, che il fondo salvastati attualmente esistente possa avere 15 miliardi. Allora, 15 miliardi servono per aiutare la Spagna per una settimana, due settimane. Ricordiamo che quando la Banca Centrale Europea iniziò gli acquisti di titoli di Stato, nella prima settimana fece 20 miliardi, per cui queste sono le cifre. Allora, è l'aspetto inquietante, e che inquieta non me ma i mercati finanziari, è che è da 2 anni che in Europa si parla di creare una rete di protezione, dei fondi salvastati, se ne discute, se ne parla, si sono fatti vertici su vertici su vertici, e ci troviamo nel momento in cui veramente il fondo serve, che ci sono 15 miliardi in cassa. Questo è l'aspetto sconcertante, qui dimostra la totale assenza e la incapacità di fare qualunque cosa razionalmente intelligente da parte del governo europeo in senso lato, quindi tutti i paesi europei. A questo punto si affaccia

Si ricordi Andrea che ci scrive al 349-238-6666 dicendo: ma con una legge mondiale non si possono azzerare tutti i debiti dei paesi e ricominciare da zero? Si ricordi sempre che per ogni debitore c'è sempre un creditore, e quindi anche a quelli bisogna pensare, insomma, tanto a, come dire, a chi ha in capo, insomma, questi debiti dei paesi europei. Moria, io ti chiedo di restare, abbiamo una breve pausa, ti chiedo di restare ancora un attimo con noi, perché a proposito di speculazione, a proposito di come stanno andando i mercati in queste ore, c'è un tema che mi interessa. Tu oggi hai scritto un pezzo, secondo me piuttosto interessante, sulle differenze, no, tra i rendimenti dei nostri titoli di Stato e di altri paesi, tra cui l'Irlanda. Irlanda che è in una condizione, dopo il salvataggio, diciamo, in una condizione non dico ottimale, ma quasi, tra gli altri motivi, anche perché è riuscita a tenersi la sua tassazione sulle imprese al 12,1%, che sinceramente non è niente male per attrarre investimenti. C'è un punto però che mi interessa, ed è come mai i rendimenti della Francia sono così bassi, pur avendo una condizione finanziaria di debito pubblico e di deficit tutto sommato piuttosto pesante, e non avendo intrapreso una mezza politica di austerity, anzi andando in una direzione a quanto pare completamente diversa. Dell'Irlanda abbiamo accennato, ti chiedo Moria se c'è una qualche spiegazione che non sia il semplice effetto contagio da un paese all'altro, quindi tocca la Spagna, poi tocca l'Italia e poi tocca la Spagna, che il motivo per il quale i titoli di Stato francesi siano a livelli così bassi. Ma i titoli di Stato stanno spaccando letteralmente l'Europa in due. Ogni Stato ha determinate motivazioni. Ci sono gli Stati forti come la Germania, ma anche l'Olanda, così, che attirano capitali perché sono più forti, quindi danno più sicurezza. Ci sono altri Stati che sono attirano magari perché la loro bilancia dei pagamenti, i loro flussi tra l'estero e l'interno sono positivi, quindi è il caso del Belgio. Il Belgio attira capitali soprattutto per questo motivo: il saldo, la bilancia tra i capitali che escono e i capitali che entrano è a favore dei capitali che entrano, mentre invece in Spagna è l'esatto opposto. La Francia ha una serie di motivazioni più vaste. Io credo, anche a me un po' stupisce la Francia, perché esattamente un anno fa era la Francia sotto l'occhio del ciclone, le banche francesi erano prese di mira, in alcuni casi hanno risolto alcune problematiche, ma non assolutamente non in maniera risolutiva, così. Diciamo che la Francia sta in questo momento non è vista come un paese in difficoltà dai mercati, quindi è vista come è all'interno, diciamo, della cerchia dei paesi forti, e quindi in questo momento attira capitale anche la Francia. Ovviamente tutto è passibile di cambiamenti in futuro, quindi, però quello che vorrei dire è che ogni Stato ha una specificità per cui i capitali entrano o escono, ma non sempre. Per esempio l'Italia ha gli stessi problemi oggi che aveva un anno fa e 10 anni fa, perché alla fine non è che abbiamo peggiorato i conti pubblici, ce l'avevamo un gigantesco debito pubblico all'inizio della crisi, ce l'abbiamo oggi, noi tra l'altro siamo quelli più stabili, eppure adesso ci bersagliano per un motivo proprio di grandezza, per un motivo di fragilità, per tanti motivi. Quindi purtroppo i mercati finanziari stanno letteralmente spaccando in due l'Europa, e noi siamo purtroppo dalla parte sbagliata. Grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore, come sempre, per la puntualità dell'analisi. Vi ricordo tra l'altro che il Sole 24 Ore domani ancora ha uno speciale Salviamo l'Euro, tra l'altro con un manuale di 4 pagine, Proteggi il tuo risparmio nella nuova grande crisi dell'estate. Noi adesso ci occupiamo di mercati. Ancora, direte voi, ma questa volta è la borsa che chiude in negativo, -2,71% sul FTSE MIB, -2,42% sul FTSE All Share, negativa anche l'America in questo momento, -0,8% sul Dow Jones, -0,83% anche sullo Standard & Poor's 500, -0,24% sul Nasdaq, mezzo punto percentuale di calo sul Nasdaq. Tra l'altro sono attesi per questa sera i risultati di Apple, interessante vedere come saranno. Francoforte in calo dello 0,45%, Parigi dello 0,87%, oltre i 2 punti percentuali di calo a Madrid. Paolo Paronetto, Radio Core, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. buonasera a tutti. Allora, direi che, dato che ne abbiamo parlato fino adesso, commentare genericamente come è stato l'andamento di questa giornata di borsa mi sembra quasi inutile. I motivi sono sempre quelli: l'andamento, le tensioni che riguardano la zona euro, l'andamento dei titoli di Stato, che poi naturalmente si riflette sulle banche, che ancora una volta vanno giù. La Popolare Emilia Romagna meno 7,03%, Mediobanca meno 6,7%, UbiBanca meno 6,56%, Mediolanum meno 5,3%, Banco Popolare meno 4,8%, Intesa San Paolo meno 4,5%, Unicredit meno 4%, Monte dei Paschi meno 4,16%, e con l'euro che quota 1,20,64 contro dollaro. Quindi cosa faccio? Ti porto sui singoli titoli, Paolo, oggi, e partirei però da una nota positiva. Ce ne sono solamente 3 o 4 sul listino, se si conta Fiat Industrial, che è in perfetto pareggio. Una di queste è Pirelli, più 5,66%. Sì, per quanto riguarda Pirelli si tratta di fatto di un rimbalzo tecnico, anche in vista della presentazione dei conti trimestrali che sarà giovedì, e nelle ultime 3 sedute il titolo aveva accusato pesanti cali. Proprio 4 giorni fa era oltre i 7,5 euro, adesso no, anche con questo recupero ha chiuso a 7,37, quindi diciamo che il titolo è stato oggetto di forti vendite, e in questa fase, anche appunto in vista dell'attenzione che tornerà proprio giovedì in occasione della trimestrale, diciamo che c'è chi si sta riposizionando proprio in attesa di sapere quali saranno i risultati di bilancio, magari sfruttare l'ondata e le conseguenze proprio di questo annuncio. Mezzo punto percentuale di guadagno per Saipem, qua ci sono insomma buone notizie dal lato contratti. Esattamente, è una notizia proprio di business. Oggi la società ha annunciato nuovi contratti in Arabia Saudita per 250 milioni di dollari, e proprio sulla scorta di questo annuncio gli investitori hanno acquistato i titoli, che sono saliti di mezzo punto percentuale a 34,9 euro, in uno scenario che vede prezzi del petrolio in lieve rialzo. In questo momento il futuro sul WTI sale dello 0,7% e sta avvicinando quota 89 dollari al barile. Positiva, e così sapete anche qual è l'altro titolo positivo sul listino oggi, è TOTS, più 0,21%. Non si è comportata malaccio se consideriamo le altre banche. La Popolare di Milano, Paolo, meno 1,06%. Esattamente, è stato per gran parte della seduta addirittura in territorio positivo. Alla fine ha perso terreno anche la BPM, chiusa appunto meno 1,06%. A sostenere il titolo sono l'attesa per la presentazione del nuovo piano industriale, che sarà approvato oggi in queste ore proprio dai consigli della banca e presentato alla comunità finanziaria e domani. Le prime e alcune indiscrezioni parlano di un robusto taglio di costi, con 1.000 esuberi, tra gli 800 e i 1.000 esuberi di personale, e dei target di utile al 2015 superiori ai 250 milioni, obiettivi che sono giudicati ambiziosi dagli analisti e che ovviamente, se saranno realizzati, aiuteranno il recupero sia della redditività della banca, e anche, secondo molti analisti, del titolo in borsa, che ha sofferto molto nelle ultime settimane. Quindi oggi non ha guadagnato, ma ha perso meno degli altri proprio grazie a questi fattori. Per il secondo giorno consecutivo A2A è il titolo peggiore del listino, meno 7,4% nella giornata di oggi. Ma cosa sta succedendo? Ma per quanto riguarda A2A non ci sono notizie specifiche, soprattutto non ci sono notizie specifiche per quanto riguarda il business. Diciamo che il titolo continua a scontare alcune incertezze sul futuro strategico, essendo una municipalizzata e per di più con un governo condiviso tra due amministrazioni comunali. Diciamo che spesso l'incertezza della strategia deriva anche dall'incertezza delle relazioni all'interno della politica, e quindi il titolo non ne beneficia. Inoltre si continua a essere sotto i riflettori la questione Edison, che non è ancora del tutto risolta, con dei dubbi per quanto riguarda i detentori delle azioni di risparmio Edison, e quindi in questa fase di mercato molto negativo molti investitori preferiscono alleggerire le posizioni in attesa di momenti migliori e più chiari. C'è un'altra municipalizzata che è andata giù oggi in borsa, Acea. Esattamente, tra l'altro appunto anche su A2 è appesa proprio l'effetto ACEA che ha attivato giù tutto il settore utilities. In questo caso il Consiglio di Stato ha bloccato la vendita del 21% del capitale di ACEA da parte del Comune di Roma in attesa che vengano esaminate le migliaia di ordini del giorno presentati in comune dai consiglieri dell'opposizione. Naturalmente è una decisione che rallenta molto il processo di privatizzazione, quindi di vendita di questo 21% da parte del Comune, che ha pesato moltissimo sul titolo, che oggi ha chiuso in calo del 7,8%, trascinando appunto al ribasso anche tutto il resto del settore. Per quanto riguarda Impregilo, come sembra sia andata bene oggi, no? Nell'ambito. Esatto, diciamo che comunque ha perso terreno anche Impregilo, ma meno di quanto ha fatto l'indice, ha chiuso in calo dell'1,78%, il titolo naturalmente è sempre molto osservato in questi giorni in attesa di capire quali saranno gli sviluppi strategici dopo la vittoria di Salini in assemblea. Oggi il titolo è stato sostenuto anche da una notizia che proprio riguarda il business della società: ha vinto una gara in California per costruire un ponte a Long Beach, il valore complessivo della commessa di 650 milioni, di cui 195 saranno in capo a Impregilo. È stato proprio questo a sostenere oggi le quotazioni. Infine ti chiedo di ST Microelectronics, che ha fornito i dati. In questo caso i risultati di bilancio sono stati peggiori delle attese degli analisti, in particolare la società ha chiuso un trimestre in perdita in confronto all'utile registrato nello stesso periodo dell'anno scorso, e le quotazioni quindi ne hanno risentito, hanno perso il 4,31%. Nel dettaglio, nel secondo trimestre ST ha perso 75 milioni di dollari, una perdita ridotta rispetto al primo trimestre, ma che si confronta con un utile di 420 milioni nello stesso periodo del 2011. Inoltre c'è stato una perdita per azione di 5 centesimi, mentre gli analisti si aspettavano 3 centesimi per azione. Per questi motivi il titolo ha perso terreno. Ci chiedete del famigerato spread, insomma non iniziamo con famigerato, è solamente un indicatore ed è l'indicatore della differenza tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, ve l'abbiamo dato prima, vi riaggiorniamo anche adesso, è a 536 punti e ha quindi superato i livelli di novembre. Dove, lo ricordiamo a scanso di equivoci, e non è una questione, perché ogni volta se ne fa una questione politica, in quel momento la Banca Centrale Europea comprava titoli di Stato italiani, ma non è che lo si dice per questioni politiche, è un dato di cronaca oggettivo. Il rendimento dei titoli di Stato italiani a 10 anni è al 6,58%, quello degli spagnoli al 7,62%, e lo spread con i titoli tedeschi dei titoli spagnoli è a 638 punti. Veniamo dunque a parlare della vicenda Fondiaria Sai. Perché ne parliamo? Perché Salvatore Ligresti, che è presidente onorario di Fonsai e Premafin, indagato dalla Procura di Milano, come sapete, per aggiottaggio e ostacolo all'attività di vigilanza della Consob, presidente onorario, lo ricordiamo ancora una volta, è stato interrogato giovedì scorso dal PM milanese Luigi Orsi nell'ambito dell'inchiesta sulle sue società. Interrogatorio durato fino a tarda sera e inizia a uscire qualcosa. Fabio Pavesi, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Esce una lettera. Che lettera? Ma sì, è una sorta di giallo. Il PM si è ritrovato fra le mani questa lettera, due cartellette scritte, in cui sostanzialmente c'erano le condizioni che la famiglia Ligresti dettava a Mediobanca per lasciare campo libero. Allora, le condizioni sono un versamento di 45 milioni di euro come controvalore del 30% della quota di Premafin, oltre ad auto e clausole, un ufficio, un autista, una segretaria e una cascina per Salvatore Ligresti, una liquidazione per la figlia Ionella e il mantenimento delle posizioni in Francia e in Svizzera delle attività dei figli Giulia e Paolo Ligresti. La lettera ha una data, il 17 marzo scorso, e la lettera è nelle mani dell'avvocato Cristina Rossello. Chi è Cristina Rossello? È la segretaria del patto di sindacati Mediobanca, ma è anche l'avvocato di Ionella Ligresti. Quindi un conflitto di interessi, un conflittone dove i uomini e le persone si confondono. Perché giallo? Perché Mediobanca ha ovviamente subito smentito, ha detto che non c'è nessuna firma su quel documento, la calligrafia sembra riconducibile alla stessa Ionella Ligresti e parrebbe... Quindi tra l'altro scritta a penna, non... Sì, proprio un foglietto di carta, due paginette, insomma, il che la dice lunga, ha un po' lì, insomma, sembra quasi un ricatto, ecco. Il problema è che... Cioè un ricatto a Mediobanca? Sì, sostanzialmente la famiglia ha capito che oramai La sua parabola era di fatto chiusa. Ricordiamo che il PM di Milano Luigi Orsi, che sta seguendo tutta l'inchiesta, aveva già iscritto al registro degli indagati Salvatore, appunto per aggiotaggio ostacolo alla vigilanza, dichiarato il fallimento delle holding personali, le famose IMCO e Sinergia, cioè le uniche società di fatto possedute dalla famiglia e non quotate. E quindi capito che insomma la parabola era ormai su una china discendente inarrestabile, probabilmente è scattato questo meccanismo, insomma io lascio il terreno se tu mi dai qualche prebenda. È una storia un po' misera perché i 45 milioni di euro, ricordiamo che l'impero Ligresti nel suo massimo fulgore 2006-2007 possedeva la fondiaria SAE, che possedeva la Milano Assicurazione, in cima c'era addirittura la Prema, stiamo parlando di... La seconda compagnia assicurativa del paese, la Milana, una subholding, quindi un impero miliardario su cui Ligresti hanno sempre fatto un po' un gioco loro, un gioco un po' sporco, nel senso che usavano a drenare risorse liquide dalle compagnie quotate a favore delle proprie holding non quotate. E non solo, perdonami Fabio, sì. Delle holding, perché insomma cronaca, e qua lo abbiamo raccontato, se vogliamo sono cronachete, ma danno anche la misura di quello che è successo, raccontano che insomma Salvatore Ligresti si faceva anche delle autoconsulenze. Si faceva consulenze per 40 milioni, c'erano questi trasferimenti. Cioè autoconsulenze, mi spiego, autoconsulenze intendo che era consulente delle sue stesse società. Esattamente, sostanzialmente. Esattamente, ma non solo. Allora, da Fondiaria SAE Milano, nella ricostruzione fatta anche da noi in questi mesi, sarebbero usciti centinaia di milioni di euro negli ultimi 5 anni a favore appunto di Inco e Sinergia, poi dichiarate fallite. E il tema è, ma questi soldi che uscivano a favore delle holding non quotate, perché dopo 3 anni le holding non quotate si trovano in condizioni di fallimento? Dove sono finiti questi quattrini? Questa è la pista che sta seguendo il magistrato. Per ora sono solo supposizioni, è probabile che siano finiti all'estero perché hanno liquidato la Star Life lussemburghese solo l'altro ieri, Ligresti, che era la società lussemburghese che possedeva Inco e Sinergia, fallite le due sottostanti liquidi lussemburghese. Ma la catena estera dei Ligresti è piena di trust e fiduciari, è una roba infinita. Il tema però qual è? Torniamo alla vicenda, perché la vicenda è quasi una vicenda di colore. Però se tu vieni ricattato è perché sei nelle condizioni anche di essere ricattabile, e qui torna fuori il ruolo delle banche, perché Mediobanca, dice un vecchio detto che se tu sei debitore verso la banca di 10.000 euro il problema è tuo, se tu hai un debito di 1 miliardo con la banca il problema è della banca. Le banche, particolarmente Mediobanca e Unicredito, si erano esposte fortissimamente sulle galassie dei Ligresti. Allora vi do solo qualche numero, tanto per avere un riferimento. Allora, Mediobanca da sola ha finanziato la Fonsai a partire dal 2003 per 1 miliardo e 50 milioni. Pensate che Mediobanca ha impieghi di portafoglio per 36 miliardi, cioè una banca finanzia per un 36esimo un solo soggetto fisico, cioè la famiglia Ligresti. Questa è una concentrazione di rischio pesantissima. Tenete conto che quel miliardo corrisponde al 17% del patrimonio netto di tutta Mediobanca. Cioè se i Ligresti falliscono e se Fonsai va in cattiva condizione di salute, il problema non è solo dei Ligresti, diventava di Mediobanca. Ecco perché la ricerca furiosa di un cavaliere bianco, un salvatore, vedi Unipol, questo serviva a garantire i prestiti, perché se quella cosa si sfarinava e non c'era la fusione con Unipol, il Mediobanca rischiava di perdere un miliardo. Non è il primo caso che vediamo in questi anni, tra l'altro, no, di questo genere. Purtroppo no. Noi vediamo banche che tendono a finanziare, pensiamo alla BPM di Milano, no? Che ha finanziato per 150 milioni un oscuro personaggio del mondo delle sale giochi. Allora, chi decide quel prestito? Chi decide in base a quali condizioni il creditore poi te le restituirà? Questo è un tema grosso per il mondo bancario, cioè noi parliamo di stretta creditizia, leggiamo di imprenditori piccoli che fanno fatica a ottenere i fidi e poi scopriamo che le nostre banche sono fortemente esposte su grandi gruppi finanziari e industriali con cui c'è una catena di conflitti di interesse, perché Ionella Ligresti siedeva nel CDA di Mediobanca e non è casuale. Allora, questa vicenda di questa sorta di ricatto, che se volete appunto è una sorta di tragicommedia finale, la dice però lunga sul fatto che qualcuno negli anni ha sbagliato in buona fede, probabile, però tu non concentri un miliardo di prestiti su una sola compagnia quotata per il quasi un quinto del tuo patrimonio netto, perché è un rischio eccessivo che ti stai assumendo. Allora poi sei costretto in qualche modo a fare di tutto perché quella cosa lì rimanga in piedi. E questo, se non si capisce questo, non si capisce tutta la dinamica della vicenda della famiglia Ligresti di questi anni. Grazie a Fabio Paesi del Sole 24 Ore per averci chiarito quest'ultimo capitolo della vicenda Ligresti. Il nostro correttore di bozze ci dice al 349-238-6666 che lo spread in realtà a novembre era 576 punti. Sì, mi riferivo naturalmente, così come avevo detto prima, scusate se non sono stato preciso con la data, il 17 novembre, giorno del passaggio di consegne tra Silvio Berlusconi e Mario Monti, lo spread era lievemente più basso di oggi. Ma Banca Italia, Consob e ISVAP dove erano? Beh, insomma, una domanda niente male. Per quanto riguarda la questione dello spread, non ho sbagliato, ho detto semplicemente che i livelli sono quelli di novembre, però per favore usciamo da questa questione di Berlusconi, insomma qua non è che si vuol difendere il governo precedente, per favore piantiamola, stiamo semplicemente affrontando una situazione difficile che è chiaramente dipendente da una situazione complessiva europea e si sta ragionando come uscirne. Tra l'altro sono due giorni che diciamo che la soluzione, è inutile star qua a ragionare su quello che può fare l'Italia, cioè l'Italia deve fare quello che deve fare perché lo deve fare e probabilmente perché è il momento giusto. Detto ciò, la soluzione sta da altre parti evidentemente, per contenere almeno sul breve periodo, visto che le riforme hanno sempre, che le si giudichino buone o cattive, le riforme hanno sempre una lunga portata e quindi finché questa portata non si esplica, evidentemente questo è il ragionamento di Monti ed è un ragionamento condivisibile comunque la si pensi su Monti, nell'attesa che queste riforme esplichino i loro effetti, ci vuole evidentemente una protezione da questo rischio contagio. L'Europa è oggettivamente in questo momento in una situazione, se non di paralisi, quasi. Veniamo però a parlare più specificatamente di questioni italiane, cambiamo quindi un po' argomento e parliamo di lavoro. E ancora, prima l'accusa di difendere Berlusconi contro Monti, adesso l'accusa di essere sempre a favore di Monti. Guardate che le critiche al governo in questa trasmissione, e non solo, non sono mai state risparmiate. Veniamo dunque a parlare di lavoro, come si diceva, con una vicenda che forse avrete trovato anche su qualche giornale oggi. È la vicenda della Perugina di San Sisto, la fabbrica della Perugina a San Sisto, siamo in provincia di Perugia, e il proprietario, come saprete, della Perugina è la Nestlé. La Nestlé che ha proposto ai sindacati un accordo particolare, un taglio dell'orario di lavoro e in cambio, la dico molto brutalmente, adesso ci facciamo spiegare, assunzione dei figli dei dipendenti. Lo stabilimento di San Sisto, lo ricordiamo, da qui escono i Baci Perugina, è la fabbrica più importante della Nestlé in Italia, 30 milioni di tonnellate di cioccolato l'anno, ne esporta il 40%, età media dei dipendenti 34-35 anni, 897 persone a tempo indeterminato, di cui 275 a part-time. Spero di aver detto i numeri giusti. Gianluigi Toia, direttore delle relazioni industriali di Nestlé, leader mondiale, come sapete, in nutrizione, ma anche salute e benessere. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, al di là dei numeri, io voglio capire, noi l'abbiamo detta un po' grezza la cosa, si riducono l'orario di lavoro, in cambio assumete i figli. Ci spiega un po' più nel dettaglio che cosa avete proposto ai sindacati? Sì, direi intanto che la sua sintesi è stata efficace. Solo una precisazione, sono 30.000 le tonnellate di cioccolato e non 30 milioni, perché saremmo veramente contenti di produrne 30 milioni. Però diciamo che allora la proposta nasce da una serie di considerazioni. La prima è che è quella di carattere tecnico e di business, che ci vede in qualche modo a voler comprimere il periodo di produzione per portare il periodo di produzione vicino al momento di consumo, perché portando il periodo di produzione molto vicino al momento di consumo pensiamo che questo possa influire positivamente e sull'efficienza e sulla qualità del prodotto, sulla freschezza, e quindi rimettere in pista. Mi scusi perché ci spieghi meglio. Allora, immagino che ci sia naturalmente un consumo stagionale, cioè per esempio d'estate i cioccolatini semplicemente non vanno o vanno molto di meno, no? Suppongo che sia una cosa di questo genere. Quindi al momento voi andate in produzione continua e proponete invece di concentrare... Quando ha descritto i nomi ha parlato di 275 persone part-time. Questi 275 part-time sono persone che prima erano stagionali e che noi abbiamo, con un accordo innovativo, trasformato in contratto part-time flessibile. Quindi togliendoli dalla precarietà, dandogli un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, queste persone sono pagate 30 ore medie durante tutto l'anno e lavorano però in funzione della curva produttiva, che è la curva dei consumi, come lei ha ben detto. Quindi noi adesso abbiamo l'interesse a aumentare questo numero di part-time, perché abbiamo molto lavoro in un periodo che si comprime sempre più. Allora, la proposta che abbiamo avanzato è quella di incentivare in qualche modo i lavoratori che sono a full time e che sarebbero, mi faccia dire, improduttivi fuori in un periodo lontano dal momento del consumo, a trasformare il loro rapporto in part time, riducendolo del 10%, del 20%. Mi scusi, la interrompo, mi perdoni Toia, perché sennò anche i nostri ascoltatori non capiscono. Ma come me del resto, devo dire la verità. Ma come funziona in uno stabilimento come il vostro? Funziona che quelle sei ore al giorno che vediamo in realtà non sono sei ore al giorno, ma sono più ore che si accumulano in diversi periodi dell'anno, e questa delle sei ore al giorno è una semplificazione? Questo così funziona? E ci sono periodi nei quali invece stanno qua fermi o quasi? Ci sono periodi in cui stanno fermi e periodi in cui si lavora a pieno regime, assolutamente. Le sei ore al giorno sono una semplificazione media. Chiarissimo. Esatto. Benissimo, giusto per capire meglio, insomma, non è come una fabbrica meccanica nella quale si lavora indifferentemente lo stesso numero di ore durante l'anno. No, c'è una forte stagionalità. C'è una forte stagionalità, insomma, diciamo un po' come succede nell'agricoltura, insomma, per intenderci. Dunque, a queste persone avete proposto... tagliamo l'orario di lavoro e in cambio prendiamo i vostri figli. In che formula, con che metodo? Nello stesso metodo, cioè sempre con contratto di part-time a tempo indeterminato. Quindi le persone che si renderanno disponibili a ridurre l'orario di lavoro e a trasformare il loro rapporto da 40 ore medie l'anno a 30 ore medie l'anno, potranno proporre l'assunzione di un figlio. Noi ovviamente ci riserviamo la facoltà di accettare previa selezione di merito della persona, e a quel punto, se siamo d'accordo su tutto, la famiglia complessivamente avrà due stipendi al 75% anziché uno stipendio al 100%. Al 349-238-6666 ci scrivete, siate equi, sentite anche i sindacati. E dunque il segretario nazionale Fly CGL, Mauro Macchiesi, al microfono di Valentina Furlanetto. Ci sono due motivazioni, una di merito, nel senso che già in passato la Nestlé ha fatto delle procedure di uscita dei lavoratori più anziani accompagnati alla pensione, e oggi i lavoratori hanno una media molto bassa e quindi è un'operazione non fattibile. Seconda questione, il problema non è di dividere il lavoro, ma è innanzitutto di discutere come rilanciare la produzione su quel sito, con innovazione di prodotti, con nuove realtà da mettere in produzione, cosa che il gruppo Nestlé in Italia da un po' d'anni a questa parte non fa più. Ma in una situazione in cui il lavoro scarseggia un po' per tutti e di difficoltà per le aziende, non potrebbe essere un modo per trovare lavoro a dei giovani? No, il problema non è che la riduzione dei volumi sul sito di Perugia è dovuto alla crisi, in gran parte è dovuto alla mancanza di investimenti e di rilancio produttivo di quel sito. Tra le altre cose, non si capisce perché un genitore che con questa procedura non arriva alla pensione e che con lo stipendio non arriva alla famosa quarta settimana dovrebbe dividerla con il figlio. Abbiamo l'impressione che l'azienda abbia avanzato questa proposta con un'idea di ridimensionamento del sito, non di trovare lavoro ai giovani. Allora, Gianluigi Toia, direttore relazioni industriali di Nestlé, dice la CGL: innanzitutto c'è un tema di mancanza di investimenti e di produzione dello stesso stabilimento che va portata un po' più a pieno regime, e poi insomma non sembrano convinti per niente i sindacati, almeno la CGL. Che ci dice? Per quanto riguarda gli investimenti, devo dire che negli ultimi 5 anni abbiamo investito sulle strutture industriali di San Sisto una media di 5 milioni all'anno, quindi per nuove linee di produzione. Tra l'altro l'anno scorso abbiamo lanciato Bacio Bianco, che è stato un successo assoluto, quindi anche innovazione di prodotto. Poi è chiaro, vorremmo tutti produrre 30 milioni di tonnellate di cioccolato, magari riusciamo a produrne 30.000, il mercato soffre su un prodotto come il cioccolato in Italia particolarmente. Noi in questi anni abbiamo sviluppato una forte presenza sull'estero. Lo strumento di Perugia produce il 40% per le consociate est, quindi prodotti venduti da Nestlé France, da Nestlé UK, da Nestlé Germania, eccetera. Quindi stiamo facendo il massimo. E come dicevo prima, noi vogliamo essere efficienti e attrarre volumi, essere competitivi. Un modo per essere competitivi è anche quello di introdurre giovani che portano voglia di attività di innovazione, e quindi questa è una risposta alla crisi, è una risposta per crescere, non per diminuire. Noi non vogliamo dividere il lavoro, come dicevo prima, non vogliamo dividere il lavoro, lo stipendio al part time al 50%, vogliamo moltiplicarlo. Ci scrivono gli ascoltatori, vabbè, insomma, qua siamo sul filo della provocazione, eh? Poi dice: quando i genitori andranno in pensione non assumeranno più, e così avranno lo stesso numero di persone con metà ore di lavoro. Vabbè, insomma, intanto andranno in pensione tra almeno 10 anni, perché con lo spostamento delle pensioni credo che i nostri lavoratori, noi abbiamo una media di 50 anni, ma i più anziani sono intorno ai 55, 56, 57 anni e avranno quasi una decina d'anni ancora di lavoro, quindi staranno con noi ancora per molto. Ci scrivono ancora: la Nestlé ha capito come funziona in Italia la pubblica amministrazione, da 50 anni che si fa così di padre in figlio. Ora, al di là della battuta, suona un po' da paternalismo di antico capitalismo italiano e non solo italiano che abbiamo visto in passato, devo dirle la verità, Io non credo che sia discorso di paternalismo. Tenga presente una cosa: noi siamo in una realtà che è Perugia, che è un microcosmo particolare, nel senso che non è una grandissima città. Di fatto noi in azienda abbiamo già numerosi genitori, figli, madri e figlie, perché il bacino di utenza è quello, insomma, quindi non è una cosa stravolgente o paternalistica. E poi questo è un incentivo per trasformare il rapporto di lavoro. Perché un lavoratore dovrebbe appunto trasformare il rapporto di lavoro da 40 a 30 ore? Questo è un incentivo, questo non va a detrimento del diritto di nessuno, è una proposta. Dopodiché noi ci riserviamo sempre la facoltà di accettare o meno, perché non è un automatismo, non è un diritto, è una proposta contrattuale. Benissimo. E i segnali che avete ricevuto? Noi abbiamo sentito la CGIL, segnali che avete ricevuto dagli altri sindacati? Allora, a me risulta che la UIL sia favorevole, si sia espressa in modo favorevole anche durante le assemblee. La CISL ha posto qualche paletto, qualche, come si dice in gergo, qualche problematica da affrontare, ma credo che la proposta è veramente agli inizi. Anche quello che diceva Macchesi aveva dei contenuti che sono assolutamente legittimi e sono da approfondire. Noi non riteniamo di avere una proposta già perfetta, vogliamo discuterla, vogliamo approfondirla e vogliamo trovare, se possibile, delle convergenze. Grazie a Gianluigi Toia, direttore delle relazioni industriali di Nestlé, e buonasera. Grazie, buonasera. E noi siamo quasi in chiusura, ma prima, in una giornata come oggi, naturalmente non potevamo non occuparci di Sicilia. Allora, oggi a Roma l'incontro tra il Presidente del Consiglio Mario Monti e il Presidente della Regione Sicilia Raffaele Lombardo sulla questione dei problemi di bilancio della Regione, problemi di bilancio che tra l'altro Lombardo continua a negare. Parla Mario Monti in una nota diffusa da Palazzo Chigi: un piano di rientro finanziario e di riorganizzazione della pubblica amministrazione regionale che sia vincolante nei tempi e negli obiettivi. L'esigenza improcrastinabile di provvedere ad un rigoroso piano di riduzione e contenimento della spesa regionale, in simmetria con quanto si sta realizzando a livello nazionale. E però, visto come sono andate le cose, questa cosa Lombardo proprio non la può fare, e infatti il 31 luglio si dimette. Io mi dimetto il 31 di questo mese, si voterà, se Dio vuole, il 28 e il 29. Non ci saranno spese, non ci saranno sperperi, non ci sarà niente. Si temeva che ci potessero essere spese pazze o quant'altro, niente di niente di niente. Rigore nei conti, come in questi giorni, anche nei prossimi giorni a venire, e soprattutto un programma di rientro della spesa. Noi abbiamo presentato un disegno di legge per attuare o per rafforzare lo spending review anche in Sicilia, e un decreto sulle partecipate che abbiamo ridotto da 34 a 14, che costituiranno l'ossatura di un programma, come dire, di contenimento della spesa e di investimenti per la crescita, che dovrà, ci auguriamo, lo auspica il Premier, dovrà essere, come dire, il punto caratterizzante di qualunque governo dovrà intervenire dopo di noi. E così ancora Lombardo sullo sblocco dei soldi per la sanità. È stata una grande balla quella del fallimento, il default, eccetera. La regione siciliana ha conti solidi e finanza sostenibile, ha un debito che ha onorato il 30 giugno pagando la sua rata, che incide nella misura del 7% del suo prodotto interno lordo, paga i suoi stipendi e per ogni euro che entra garantisce appunto la possibilità di onorare i suoi impegni. Ha delle criticità, tali per cui le agenzie di rating comunque ci classificano come il Veneto e un po' meglio del Piemonte. La criticità si chiama liquidità, che è legata alla riduzione delle entrate tributarie, ai crediti che abbiamo, alcuni con lo Stato, che oggi ci ha sbloccato 240 milioni per quanto riguarda la sanità, a prescindere dai 400 di cui si è parlato nei giorni scorsi. Ma noi non chiediamo neppure che questi crediti ci vengano riversati, perché comunque, ripeto, a prescindere da queste considerazioni, i nostri conti tengono, ma soprattutto tengono per le radicali riforme che abbiamo approvato nella sanità, nel sistema dei rifiuti, ma anche nei tagli della spesa corrente che a valori deflazionati abbiamo portato al livello del 2001, mentre del 20% rispetto al 2001 abbiamo incrementato la spesa in conto capitale. I grandi numeri sono questi. Abbiamo convenuto col governo, ma lo avevamo chiesto al ministro Grilli quando ancora era viceministro, di avviare una collaborazione forte perché lo Stato sappia quello che fa la regione, ma anche perché la regione ovviamente si avvalga della collaborazione e ponga i propri problemi dinanzi allo Stato. Ed è tutto con questa vicenda siciliana, chiudiamo questa puntata di Focus Economia, grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Pietro Lacorte in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.